Allora, parleremo questa sera dei campi morfici. Abbiamo già accennato qualcosa. Cosa sono i campi morfici, ancora meglio morfogenetici? Sono quei campi che generano delle forme. L'esempio più semplice, che conosco e a livello anche elementare, è questo. Mettiamo una calamita sopra un foglio, sotto un foglio, e sopra il foglio mettiamo delle polveri di ferro. Quindi la polvere di ferro si distribuisce secondo delle linee che sono quelle del campo magnetico. Ora, il campo magnetico è invisibile. Ecco, questa caratteristica è la caratteristica dei campi morfici. Non sono visibili se non nei loro effetti. Ad esempio, un seme contiene in potenza l'albero. E intorno al seme, se lo si osserva con particolari apparecchiature, tipo macchina Kirlian, si vede un alone, una certa forma. Quest'alone, che poi cresce via via nel tempo, anticipa la costruzione della forma fisica. Quindi il passaggio dal seme all'albero, dalla potenzialità invece alla attualità, alla manifestazione creativa. Bene, campi morfici ci riguardano come esseri umani. Noi possiamo essere esposti a campi morfogenetici o campi dismorfici. I campi morfici o morfogenetici sono quei campi che creano delle buone forme, cioè armoniche. I campi dismorfici, come dice la parola stessa, sono campi che creano brutte forme. Vi ricordo che esiste anche una patologia che si chiama dismorfofobia, cioè la paura di avere una brutta forma, di essere brutti, di avere una brutta forma. Allora, prendiamo un essere umano. Se questo essere umano ha la fortuna di vivere un campo morfico, cioè dove viene favorita la creazione di buone forme, crescerà in armonia col suo progetto di vita, come un seme diventa un albero. Ecco. E diciamo che questo essere umano sarà in contatto con la sua anima, col suo nucleo divino. Cosa succede invece se un essere umano viene allevato in un campo dismorfico, dove ci sono gli inquinanti della mente? Beh, allora, questo essere umano sarà in contatto soprattutto col suo, quello che noi chiamiamo ego o piccola mente, e genererà delle cattive forme. La nevrosi è una cattiva forma, cioè una forma derivante da un conflitto. Tutto quello che è conflittuale genera brutte forme. Andando nella storia della psicologia, Freud distingueva tra due forze fondamentali, l'eros e lo thanatos. Diceva che l'essere umano è in mezzo a queste due forze, quindi può evolvere, può crescere, può produrre, diventare creativo, oppure può tendere a tornare alla materia inorganica. Per Freud la vita fa una continua lotta perché c'è una tendenza nell'inerzia della materia. Ora, la visione di Freud è cambiata a partire dalla nascita della psicologia umanistica. Non si considera più Thanatos una forza istintiva, non c'è l'istinto di morte, non ha senso secondo la psicologia umanistica. L'istinto di morte non è altro che un modo di chiamare un fenomeno che abbiamo detto prima, un campo dismorfico, quando una persona viene educata o viene appunto allevata in un campo dismorfico, e di solito è così, che cosa succede? Che si generano delle brutte forme all'interno. Non può crescere in modo armonico, ma assorbirà dentro delle brutte forme. Ecco. Volendo, potremmo anche definire queste brutte forme in termini buddisti il karma familiare o anche il karma culturale, cioè se viviamo in un contesto dove ci sono state delle guerre terribili. Come è stato in Germania dopo la Auschwitz, dopo Treblinka, Mauthausen, è chiaro che lì si è rimasto un campo psichico dismorfico, cioè dove tante persone hanno sofferto, e questo si rimane, viene diciamo tramandato da padre in figlio, da madre in figlio. Perché oggi sappiamo dalla psicogenetica, dalla genealogia, dalla psicogenealogia, scusate, che ciò che hanno vissuto il padre e la madre, i traumi del padre e la madre, in qualche modo vengono trasferiti nel figlio, Appunto, per quale via? Per questa, di cui vi sto facendo adesso, di parlando adesso. Cioè si crea un campo dismorfico e se il figlio entra in quel campo, per forza lo assorbe. Come se vivesse in una stanza dove c'è un po' di gas tossico, un po' di veleno. Se guardiamo la storia, vedremo che esistono società che si ispiravano come primo valore all'armonia. L'armonia, in primo luogo, con la natura. Le società armoniche generavano campi morfici e quindi le persone allevate in queste società tendevano ad essere persone prive di conflitti. Così erano gli indiani d'America, presso i quali sbarcò Colombo e gli Conquistadores, almeno una parte di loro erano persone che vivevano in società che erano assolutamente pacifiche, dove non esisteva il crimine, dove non esistevano gli abusi sessuali, dove non c'erano le cose che invece in Europa erano ovunque. Laggiù non c'erano particolari situazioni di guerra, di sopraffazione. Ecco, è chiaro, non in tutta l'America, ma in alcune zone era così. E noi, la nostra civiltà, che ritenevamo essere superiore alla loro, in realtà abbiamo portato in America un campo dismorfico potentissimo. Chi vuole può leggersi il libro bellissimo di Howard Zinn, La storia del popolo americano. Queste cose sono riportate in modo esemplare. Altre società invece si sono ispirate al principio di efficienza. E in queste società, ad esempio, hanno proliferato la tecnica e naturalmente con la tecnica le armi. Ecco. In queste società il campo era in gran parte occupato dal potere, dal mito del potere dominio. Ecco, noi utilizziamo questo simbolo, questa pallina in alto, queste palline in basso. Bene, quando c'è il potere dominio che infetta un contesto, dove in questo contesto si distingue tra superiori e inferiori? Beh, questo contesto diventa un campo dismorfico generatore di conflitti che tutti si portano dentro, sia quelli che abitano, diciamo, nei ruoli privilegiati della società, sia quelli che invece abitano nei ruoli subalterni. Ecco qui campo morfico, il simbolo del potere e il simbolo di che quali sono gli effetti del potere anche all'interno della persona che in questo campo abita. Quindi un conflitto permanente.